Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Cristina Zanetti del coordinamento dei festival di cinema LGBTQ, per presentare la rassegna Taglio Lungo, online dal 1 al 4 aprile 2021. Cristina, ben trovata. Grazie mille Federico di darci questa opportunità. Siamo tanti, siamo in 9, io personalmente sono l'immaginaria, ma parlo in questo momento a nome di tutti. Questa operazione è molto importante, quindi di coordinarsi, di mettersi in rete tra festival a tematica LGBTQ, nasce a Bologna nel 2018 e i festival che vi partecipano sono i FIG, Bari International Gender Film Festival, Florence Queer Festival, Firenze, Gender Bender Bologna, Mix Festival Internazionale di Cinema LGBTQ e Cultura Queer Milano, Immaginaria International Film Festival of Lesbian and Other Rebellious Women Roma, Orlando Identità Relazioni Possibilità Bergamo, Sardinia Queer Film Expo Cagliari, Sicilia Queer Film Fest Palermo, Some Prefer Cake, Bologna Lesbian Film Festival Bologna. Com'è nato questo coordinamento che mi sembra un passo decisivo? Sì, è un passo decisivo e decisamente l'unico del suo genere. Come ho già detto, è nato nel 2018, quindi in tempi non sospetti, abbiamo preceduto di qualche mese la pandemia e naturalmente l'operazione, che già era estremamente valida ed estremamente innovativa prima della pandemia, figurarsi che cosa è diventata adesso, perché chiaramente, come sappiamo, il cinema, lo spettacolo, insomma il mondo della cultura che si muove ai teatri, in presenza, al cinema, è stato una delle categorie più danneggiate. Figurarsi festival a tema, tra l'altro siamo tutti festival grandemente basati sul volontariato, potete immaginare che botta tutto questo settore ha assestato appunto a tutti quanti e a tutte quante. Metterci insieme ha il senso intanto di valorizzare patrimonio di festival LGBTQ italiani, che sono sul territorio italiano e che però sono tutti internazionali, nel senso che presentano film a 360 gradi a tutti i paesi del mondo, per aiutarci a vicenda, supportarci a vicenda, per darci visibilità a vicenda, per raggiungere un pubblico sempre più vasto. Abbiamo già fatto una rassegna sempre online, ahimè, fino a che non potremo andare in fisico, questa è la situazione, che si chiama Taglio Corto, l'abbiamo fatta l'altro anno, dove abbiamo radunato una serie di cortometraggi secondo noi altamente meritevoli, e adesso ci riproviamo con Taglio Lungo, quindi 9 lungometraggi che ci sono sembrati fra i migliori del 2020 e che sono già stati presentati nei nostri festival. Quindi dall'1 al 4 aprile noi avremo 2 film al giorno visionabili per 48 ore consecutive a scaglioni, non c'è limite di orario, sono 48 ore. Saranno accompagnati anche da altro materiale questi 2 film? Tutti i materiali, grazie di avermelo chiesto, sono già pubblicati, intanto sulla pagina di My Movies, dove ecco chiedo anche così un po' di solidarietà da parte degli utenti e delle utenti. Gli 8 film saranno visibili per 9 euro e quindi è una cifra del tutto simbolica, valida per tutta la rassegna. E tutte le informazioni sui film e anche il daytime, cioè il programma giornaliero, trovate tutto online già sulle pagine Facebook e sui social di tutti e 9 festival. E vi viene extra come interviste o approfondimenti? Questo è un progetto iniziale, proprio sperimentale, quindi non abbiamo ancora un'unica pagina Facebook del coordinamento, quindi stiamo un po' lavorando ognuno sui propri social. Quali sono le caratteristiche principali che un po' possono accomunare questi titoli che proponete?

chiedendo come aggiornare. Io ti chiedo davvero di consiglio. Doveva essere un'anteprima temporanea, perché come sai questo periodo di cinema qui, o anche le anteprime online, ma proprio per la grande quantità di persone che l'hanno richiesto e visto, abbiamo deciso in un accordo con l'autore di tenerlo in catalogo, almeno finché i cinema non riaprono. Dico questo ovviamente perché anche questo è nella lunghissima lista di film bloccati in questo momento, quindi veramente con Open DVD, oltre che a fare il nostro lavoro da 8 anni, e l'ultimo anno abbiamo anche cercato di sostenere quello che sono le realtà in difficoltà, come è successo e succederà anche con noi. Segnalo invece altre due cose che ci tengo a segnalare. La prima è nella sezione editorie, come sapete è un'altra delle sezioni di Open DVD. Abbiamo pubblicato l'inchiesta a cura del quotidiano suggestivo tip.it, ovvero in condotta di Bologna, dal titolo Non sta andando tutto bene. È un'inchiesta fatta di dati, interviste, ma anche testimonianze degli operatori e quant'altro, proprio sulla situazione legata alla parte dell'emergenza sanitaria di questa pandemia. Come purtroppo sapete bene, le regioni dove la situazione si è fatta gradualmente più grave, oltre il caso lombardo con tutte le contraddizioni che ormai abbiamo imparato a leggere e conoscere, la regione più vicina e che ha i numeri più alti è stata ed è tutt'oggi anche l'Emilia Romagna, quindi la riflessione verte anche ovviamente su dove è territorializzata questa inchiesta, che è stata fatta dal quotidiano bolognese Zig.it e che raccoglie in questa edizione speciale cartacea tutti i servizi e gli articoli usciti sul tema negli ultimi mesi, cercando un po' di fare anche quel lavoro di mappatura della situazione che stiamo vivendo, perché una delle riflessioni che secondo me faremo alla fine di tutta questa storia è anche il rischio di intossicazione dal flusso di informazioni che abbiamo vissuto sulla nostra pelle in questi mesi. Non che non sia giusto fare informazione e controinformazione, ma chiaramente bisogna anche dispiegarsi in quell'ondata di articoli, servizi di telegiornali e quant'altro che abbiamo visto e vissuto in questi mesi. Io credo che lavori come questo aiutino anche a fare un po' di chiarezza, soprattutto quando sono concentrati sul territorio locale, preso a modo di esempio. L'ultima cosa che ci tenevo a segnalarvi invece, anche se qui sono un po' di parte, nel senso che ovviamente è un progetto in coproduzione con la nostra casa di produzione SMK Factory, è il progetto Non mollare, di cui sicuramente avete avuto già modo di parlare con le autrici e gli autori di film, appunto, film documentario su Gaetano Salvemini. La campagna è attiva su produzioni dal basso da una decina di giorni e siamo molto contenti di essere parte di questo progetto collettivo per tante ragioni, in primis ovviamente la storia che vuole raccontare e il fatto di volerla raccontare oggi. Con SMK Factory siamo in coproduzione come casa associata con la casa principale che è la Bufilm, che è una casa di produzione bolognese, e stiamo aiutando tutto il collettivo di lavoro a portare avanti anche tutto il percorso di crowdfunding, quindi vi consiglio caldamente di cercare su Produzione dal Basso, quindi sulla piattaforma di crowdfunding che usiamo anche noi stesso, il progetto Non mollare il film e di scoprire al suo interno tutti gli obiettivi, il tipo di campagna che stiamo costruendo, quali sono le possibilità di entrare nella rete dei coproduttori e quant'altro. Paco, un abbraccio, ci risentiamo presto. Grazie a voi, a presto. Il regista Michele Mellara sul documentario 50 Sant'Arcangelo Festival, in streaming da giovedì 1 aprile 2021. Michele, ben trovato. Grazie, grazie. Presentaci questo lavoro. Ma è un lavoro che, come ricordavi, come al solito, ho diretto insieme ad Alessandro Rossi, col quale lavoro da tanti anni, ed è un documentario sulla storia di uno dei più interessanti Festival delle arti della scena italiani, cioè Sant'Arcangelo Festival. Abbiamo debuttato alle giornate degli autori e adesso c'è l'anteprima bolognese, dopodiché a Marco di Leopardo si vedrà varie situazioni, cinema, musei, teatri in giro per l'Italia. Di cosa si tratta? È stata una scommessa abbastanza ardua per noi, perché il documentario cerca di raccontare 50 anni